5. Ascolta e controlla. 1. Molti anni fa feci un lungo viaggio e vidi luoghi molto interessanti. 2. Quella volta in albergo loro prima lessero il giornale, poi scrissero varie email. 3. In quell'occasione lui non ebbe nessun problema. Non chiese aiuto a nessuno. 4. Quel giorno lei prese la macchina per venire da voi, ma a metà strada l'auto si ruppe. 5. Quella notte fece brutto tempo. Piovve per molte ore, ma noi non avemmo problemi. 6. Quando venne a casa mia, conobbe la mia famiglia.